immaginando e sto dialogando con infiniti di altri che sono sempre io. Oggi è di turno l'imbianchino e dipingendo la stanza di Miguel canta felice. San Miguel, tu che sai dove sta mia amante, tu che sai dove sta mia amante, traelo all'istante che lo quiero ver, che lo quiero ver, che lo quiero ver. Ieri mentre preparavo il sugo con gli spaghetti, mio io pomodoro bello carnoso rosso al basilico si dichiarò. Questo pomeriggio quasi al tramonto si affaccia alla finestra della cucina, il mio extraterrestre, e mi chiede se può cogliere erbe e fiori dal giardino. Ma con chi parli, mater? Mi domanda mio figlio. Con un mio signore alato argento che vuole erbe e fiori del giardino, rispondo. Come? Ah, sì, sì, capito, mi dice mio figlio. Ah, sì, sì, capito, mi dice mio figlio. Mi leggo le mani per togliere peli superflui e lucido baffi e unghie con la zampa. Il gatto io d'ancora bianco fa le fusa.